Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, come vi hanno raccontato già i nostri GR24, fatte salve sorprese obiettivamente da escludersi dell'ultima ora, l'Italia dovrebbe aver ottenuto, c'erano già indiscrezioni sui giornali, uscite sull'agenzia ieri, oggi altre fonti di Bruxelles confermano, dicevo, l'Italia dovrebbe aver ottenuto la famosa flessibilità nell'andamento del deficit. I commissari dell'Unione Europea, Dombrovskis e Moscovici, hanno raccomandato infatti al Collegio dei Commissari Europei di concedere all'Italia un totale dello 0,85% di flessibilità in più rispetto al PIL. Quanto vale? Vale circa 14 miliardi di euro. Sembra, lo 0,85% sembra poco? In realtà attenzione, perché 14 miliardi sono una manovra finanziaria quasi. E dall'Europa fanno notare che nessun paese ha mai ricevuto una somma del genere. In cambio l'Italia si impegna a sanare la differenza tra quanto si aspettava Bruxelles e quanto dovremmo fare noi nel 2017. Balla tra lo 0,15 e lo 0,2% del PIL, sono circa 3 miliardi. Così da evitare una deviazione significativa del deficit. Attenzione, perché questa deviazione del deficit in realtà può essere ricondotta non solo tagliando per 2-3 miliardi nel 2017, cioè spendendo meno nel 2017 per circa 3 miliardi, ma banalmente se il PIL crescesse più dell'attesa nel 2017 basterebbe quello a ridurre il deficit, per cui non è solo da ottenersi con tagli, anche se dovesse essere confermato questo andamento dell'economia, solo i tagli potrebbero correggere la deviazione. Ma la buona notizia appunto è che intanto il governo Renzi, infatti Renzi esulta, dice non è la flessibilità che volevamo, però ma è importante averla ottenuta, perché appunto 14 miliardi non sono poca cosa. Vengono, poi ne parleremo, confermate le cifre, cioè questo 0,85% è il risultato di un insieme di flessibilità. Una per le riforme strutturali fatte dall'Italia e considerate convincenti, vale circa 8 miliardi di euro, poi 4 miliardi valgono invece gli investimenti produttivi e poi il resto sono circa 700 milioni di euro per gestire il flusso dei migranti. E ancora la sicurezza, sempre sul fronte terrorismo, invece 950 milioni di euro. Domani arriverà l'ufficializzazione di questa cosa con la Commissione Europea che darà via libera ai giudizi sulle leggi di bilancio non solo italiane, cioè l'Unione Europea in questo periodo sta dando i voti, deve dare i voti, il giudizio, le raccomandazioni alle varie leggi finanziarie presentate dai vari paesi. Di questo parleremo ampiamente perché obiettivamente comunque non agire è una buona notizia, o meglio sarebbe stata una notizia decisamente critica non aver ottenuto questa flessibilità. Nel giorno in cui l'Istat ci fa sapere che nel 2016 il PIL salirà dell'1,1% in termini reali e il rapporto sulle prospettive dell'economia italiana, la domanda interna, i consumi, come già si vede dal primo trimestre del 2016, stanno lentamente ma stanno ripartendo e crescerà dell'1,3%, mentre nella vita non si può avere tutto. Siamo andati avanti per anni con l'export che tirava e i consumi che calavano. Adesso si stanno invertendo i ruoli, i consumi stanno tornando a crescere più 1,3%, è l'export che sta rallentando per via del rallentamento cinese, brasiliano, dei BRICS, l'abbiamo spiegato mille volte, e tant'è che la domanda estera, l'export quest'anno è visto fermo, meno 0,1%. La disoccupazione dovrebbe scendere dall'11,9% del 2015 all'11,3% e oltre che riprendere i consumi, appunto più 1,4%, dovrebbero ripartire complessivamente nel 2016 anche gli investimenti, più 2,7%. Che il commercio con l'estero non vada a contribuire a questa crescita dell'economia lo si capisce anche dal dato di marzo, l'export è in calo non solo rispetto a febbraio ma anche rispetto al marzo del 2015, meno 1,1%, calano principalmente i mercati dell'Unione Europea, meno 2,5%, e però cala in maniera ancora più forte l'area extra Unione Europea, meno 5%. Faccio alcuni esempi: i paesi OPEC, che sentono del bassissimo prezzo, del basso prezzo del petrolio, abbiamo fatto meno 21% l'export nei paesi OPEC a marzo 2016 rispetto a marzo 2015. Allora, dunque, dico l'ascoltatore che scrive: solo a Radio M, quella cosa che assomiglia alla cioccolata, sono per la flessibilità tanto cara al pupazzo mafioso. Siete dei leccac senza vergogna. Guardi che lei ha confuso la flessibilità. Io capisco il poco amore per questa radio e per chi conduce questo programma, ma lei ha confuso la flessibilità, immagino, nel mercato del lavoro o nelle pensioni, con la flessibilità che l'Europa ci dà, che non c'entra niente con il mercato del lavoro. Ci dà la possibilità, come abbiamo sempre chiesto, di avere un deficit che non sia ragionieristico, e quindi ci dà la possibilità di avere un deficit di 14 miliardi complessivamente più alto rispetto a quanto non promesso, e questa è la flessibilità di cui sto parlando. Non stiamo parlando del Jobs Act. Quindi lei adesso salvi questo messaggio: appena parleremo di flessibilità in uscita dalle pensioni o flessibilità nel mercato del lavoro, lei ha già il messaggio di insulti pronto e non deve neanche riscriverlo. E poi torniamo su una vexata questione. Allora, ognuno la può pensare come vuole. Siamo d'accordo, l'abbiamo detto più volte, che nel governo, il governo pecchi di un eccesso di enfasi nel sottolineare i dati positivi e si dimentichi i dati negativi. Diamo i dati dell'Istat, le previsioni degli istituti, e li diamo anche corretti. Però un principio non lo mollerò mai: se c'è una buona notizia per l'Italia, per l'economia italiana, è inutile fare come il marito cornuto che si taglia gli zebedei perché preferireste, alcuni ascoltatori, una notizia negativa pur di poter criticare Renzi. Ma ragazzi, ma non scherziamo, al di là di Renzi o non Renzi, se l'Europa, dopo anni di rigore, dopo anni di manovre di austerity, ci concede quasi un punto percentuale di PIL di flessibilità, è una buona notizia per tutti, vuol dire che abbiamo dei margini un po' più ampi, no? Fine. Poi uno criticherà le misure prese dal governo, come usa questi soldi. Abbiamo detto che secondo noi l'IMU, mettere i soldi per levare l'IMU è stato un errore, andavano messi sulla riduzione di IRAP e IRPEF, e a mio avviso, anche se il motivo fosse stato politico, in questo momento nessun elettore del referendum di ottobre si ricorderà dell'IMU, va bene? Uno poi critica, valuta, dà le opinioni sulle singole manovre e misure, ma non può non essere contento se l'Europa non ci obbliga a rientrare per 14 miliardi sul deficit. Su. E attenzione a pensare che noi risolviamo tutto facendo debito. Se c'è un paese che in Europa ha un problema del deficit, non è l'Italia. Se vogliamo usare il 3% come punto asticella e linea di sicurezza, è la Francia. Per cui andate bene a vedere quello che l'Europa concede anche agli altri paesi. La borsa invece, meno 1,44% Milano, perde un punto percentuale in più rispetto alle altre borse europee, perché Parigi cede lo 0,30, Francoforte meno 0,60, Londra guadagna lo 0,30, il Dow Jones perde lo 0,28. E vediamo se indovinate cos'è che trascina a ribasso oggi la borsa: le banche popolari e le due banche che ieri hanno formalizzato il matrimonio. Banca Popolare perde il 6%, Pop Milano il 6%. Poi va male anche Fiat Chrysler, meno 5,90%, con la controllante Exor che perde il 2,60%. E ancora, per quello che riguarda la borsa, segnalo una pesantezza su Ferragamo, meno 4, Yoox Net-a-Porter meno 3,50%, ancora Anima meno 3, A2A meno 2,70, Exor meno 2,5 come Ferrari, Poste Italiane meno 2,30% come Telecom Italia, il 2,20 lo perdono Moncler e Unicredit. Mediaset bene invece, più 3,50%. bene anche Tenaris, più 2%. Unicredit, sì, ci sono voci insistenti oggi anche sui giornali, ma è da settimane che girano, di un rinnovo dei vertici del gruppo Unicredit, tutto da verificare, che coinvolgerebbe, secondo le voci, in primo luogo il numero uno Ghizzoni, Federico Ghizzoni. C'è, su Fiat c'è un report negativo di BNP Paribas che si focalizza su un rallentamento delle vendite negli Stati Uniti. Rizzoli, Corriere della Sera. Allora, oggi novità dopo quella di ieri non ce ne sono, come era ampiamente immaginabile. Il titolo si mantiene comunque sopra l'offerta di 0,70, cioè non solo sopra l'offerta di 0,55 euro per azione, che è quella che è più o meno l'equivalente di quella dell'offerta di Cairo, ma anche sopra l'offerta di Bonomi. A lettura così, il primo impatto è che il mercato scommette che ci possa essere un ulteriore rilancio. Sulle fusioni bancarie, faccio notare, poi ne parleremo nelle prossime settimane, che va bene tutto, il mercato si concentra molto su Banco Popolare, Popolare di Milano, ma faccio notare che quest'anno dobbiamo portare a nozze anche tutte le altre popolari italiane. Mi sembra che non solo i preparativi e le partecipazioni siano là da venire, ma anche la sposa o lo sposo da scegliere siano là da venire. Ma vedo che è calato il silenzio sulle fusioni tra popolari. Allora, sulla flessibilità e il deficit, no, guardi che sarà positiva, ma alla fine questi debiti in più li pagheremo noi giovani. No, perché, o meglio, quello che interessa l'Europa è il rapporto tra deficit e PIL, come si diceva a scuola, deficit fratto PIL o debito fratto PIL. Allora, se aumenta il denominatore, cioè se noi riuscissimo a ripartire, a non avere una crescita che è la metà delle altre economie europee simili alle nostre, in automatico il rapporto migliorerebbe anche a deficit invariato. La cosa più importante è sì concentrarsi sulla spesa pubblica, la spending review, abbiamo criticato più volte la lentezza con cui viene applicata, visto che Cottarelli aveva già scritto tutto, ma è a maggior ragione importante concentrarsi sulla crescita, sul denominatore, quindi le leve che possono permettere alle imprese di fatturare, di assumere, e quindi ai dipendenti, ai lavoratori, di spendere e consumare. Così riparte un PIL, investimenti e consumi, oltre che export. Pum, pum, pum. Allora, altre notizie di questa giornata. Parleremo subito in apertura di un rapporto dell'Europol Interpol. Perché dite, cosa c'entrano le autorità di polizia europee? Perché hanno fatto un rapporto stimando quanto vale alle mafie il traffico di migranti verso l'Europa. Nel 2015 tra i 5 e i 6 miliardi di dollari. Tra l'altro, la cosa che fa impressione, sapevamo tutti che ci guadagnano le mafie e i trafficanti di uomini, una media si paga, calcolo Europol, Interpol, tra i 3.200 e i 6.500 dollari di media per un viaggio, ma la cosa impressionante è che dice il 90% di tutti i flussi migratori verso l'Europa è facilitato, organizzato e gestito dalle reti criminali. E poi l'allarme, attenzione, dice in Libia ci sono 800.000 persone pronte a partire. Altre notizie in breve, dicevo, dal punto di vista internazionale la produzione industriale va bene negli Stati Uniti, fa più 0,7%, è l'aumento maggiore dal 2014, ma dagli Stati Uniti veniamo a sapere anche che George Soros, uno dei principali investitori, finanziatori, speculatori, chiamatelo come volete, anche filantropo, a livello mondiale, ha ridotto i suoi investimenti nei titoli azionari statunitensi del 37%, lo dico perché molti operatori, anche fai da te, guardano a Soros come al loro guru, e ha acquistato in compenso 264 milioni di dollari in oro, o meglio, in Barrick Gold, che è il maggior produttore di oro al mondo. Letta così, sembra che Soros si attenda una frenata dei titoli azionari americani e va a riposizionarsi sul bene rifugio per eccellenza. Ancora sull'Italia non c'è molto, però sentiamo il passaggio del Premier Matteo Renzi sulla flessibilità, così diamo soddisfazione agli anti-renziani, in cui dice nelle prossime abbiamo fatto un lavoro straordinario, l'ha fatto il lavoro straordinario soprattutto il ministro Padoan. Poi Renzi ha aggiunto l'Europa ci riconosce meno flessibilità di quanto volessi, ma è importante che comunque si sia raggiunto un accordo significativo. Oggi usciranno lo scambio di missive tra la Commissione e il ministro Padoan, anche egli ha fatto un grandissimo lavoro, come pure il ministro degli esteri, il ministro dell'economia ha fatto un lavoro straordinario, e quindi potremo vedere riconosciuto questo elemento della flessibilità, che alla fine in questi due anni vale diversi soldi per l'Italia ed è uno degli argomenti per i quali possiamo permetterci di dare il via libera a alcuni investimenti che altrimenti sarebbero stati fermi. Bene, questa battaglia sulla cambiare il paradigma europeo è una grandissima priorità del nostro paese. Allora, proprio sui dati Istat sulla ripresa dei consumi, invece il rallentamento dell'export, il calo della disoccupazione, cioè il rapporto sul 2016 oggi presentato, si concentrano i 100 secondi di Radio 24 sulle 24 ore, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli del Sole 24 ore. Ricordo che sono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 ore, con Alberto Orioli. Alla fine l'Italia dovrebbe crescere dell'1,1%, lo ha detto oggi l'Istat, che ha rivisto le stime del PIL per il 2016, anno per il quale il governo prevede un tasso di crescita dell'1,2%, che peraltro ha già rivisto al ribasso all'inizio dell'anno. Per l'Istat è un bene che siano bassi i costi dell'energia, che siano vicini allo zero i tassi di interesse, che sia aumentato in modo seppur graduale l'indice di fiducia delle imprese e dei consumatori. Il dato migliore delle stime di oggi, infatti, è proprio quello sui consumi delle famiglie, che vengono accreditati in aumento dell'1,4%, perché aumentano i posti di lavoro e quindi anche il reddito disponibile, e questo effettivamente è un buon dato. È proprio la domanda interna, infatti, che farà aumentare il PIL, perché a marzo ha registrato un calo nelle esportazioni dell'1,1% annuo e i punti di crisi economici nel mondo sono aumentati e questo riduce le possibilità di sbocco delle merci italiane. Il tasso di disoccupazione invece dovrebbe attestarsi sull'11,3% e l'occupazione dovrebbe continuare a un ritmo di crescita dello 0,8%. È ancora una volta una fotografia realistica di una ripresa gracile ma comunque persistente. L'annuncio fatto dall'Europa che l'Italia potrà utilizzare 13,5 miliardi di euro in più per la gestione del bilancio è una buona notizia e potrebbe anche aiutare a corroborare quell'indice di crescita. Sono due le partite importanti che l'Italia dovrà gestire, quella dell'abbassamento delle tasse e l'altra dell'aumento degli investimenti. Solo così la ripartenza diventerà davvero un decollo. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora due notizie che riguardano la Puglia. Una arriva dal neo ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che è a Salonicco, era a Salonicco oggi in occasione della cerimonia di inaugurazione dei lavori per il gasdotto TAP. Ha detto: siamo assolutamente fiduciosi che i lavori per la costruzione del gasdotto TAP saranno fatti preservando il paesaggio pugliese, un elemento che abbiamo tenuto in considerazione al momento dell'autorizzazione. E soddisfatto Calenda anche per la recente acquisizione del 20% da parte di Snam del TAP, che conferma l'interesse degli azionisti italiani per il progetto. Su invece l'Ilva di Taranto sono dolori per lo Stato italiano, perché a questo punto è formalmente sotto processo di fronte alla Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo, con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto dagli effetti negativi delle emissioni dell'Ilva. E la Corte di Strasburgo ha ritenuto sufficientemente solide le prove già presentate e ha aperto una procedura contro lo Stato italiano. Adesso arriviamo al business, al business, agli affari che fanno le criminalità, le mafie sui migranti. Allora, dunque, io purtroppo devo rispondere, insomma, nessuno sta festeggiando, abbiamo detto in tutti i modi che ci sono dei miglioramenti, che la nostra ripresa è la metà di quella degli anni prima, di quella degli altri paesi, scusatemi, guardate la media uscita la settimana scorsa, quindi è ancora gracile, lo diceva, non so, gracile in italiano ha un significato preciso, no? Non vuol dire forte, però ripeto, se c'è un miglioramento, ma perché essere masochisti? E soprattutto una cosa, fatemela dire, uno può criticare questo governo quanto vuole, però per favore, siccome conosco questo paese che ha un problema di memoria totale, non dimentichiamoci da dove veniamo, cioè 2011 con il governo Berlusconi che va a casa senza aver fatto una riforma, con un PIL che va malissimo e lo spread che va a 560 punti, poi un governo Monti che sì, mette in sicurezza diciamo i conti, prende ordini da Bruxelles, ma se volete il mio giudizio personale, crea una recessione o elementi recessivi totali e fa una legge di riforma del lavoro fatta coi piedi, legge Fornero. Governo Letta, vabbè, insomma, si è barcamenato. Ora vediamo singoli provvedimenti, li critichiamo. La prossima sfida, a mio avviso, al di là del referendum, sarà vedere se il governo ha intenzione veramente di fare una seria riforma della pubblica amministrazione e se arriverà qualche notizia un po' più confortante, un po' più robusta sulla spending review. Questi sono i due elementi di criticità, e se farà finalmente la manovra su IRAP e IRPEF, cioè su chi il lavoro lo dà e il lavoro lo produce. Ma detto ciò, per favore, non è che prima avessimo Churchill, De Gasperi e Einaudi, tutti questi geni non so che cosa abbiano votato, e va bene così. È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. Allora, che sia un mondo difficile lo è sicuramente per, al di là di qualunque valutazione politica, per i milioni di migranti e profughi, ma soprattutto è impressionante vedere quanto scrive oggi l'Europol, Interpol, parlando del traffico di migranti verso tutta l'Europa nel 2015, tra i 5 e i 6 miliardi di dollari, che poi andrebbero parametrizzati per il valore della vita in questi posti, perché poi pagare un trafficante di uomini 3.200 dollari e magari vive in Somalia o in Libia è un po' diverso, no? Comunque tra i 5 e i 6 miliardi di dollari si paga mediamente tra 3.200 e 6.500 dollari per il viaggio di un singolo migrante, ammesso poi che arrivi vivo. E ancora il 90% del flusso è gestito da criminali, quindi praticamente non c'è quasi nessuno che prende di sua sponte attraversi, affronti la traversata. In Libia sono 800.000 pronti a partire, e questo nel mese in cui abbiamo scoperto che per la prima volta il numero dei migranti arrivati in Italia ha superato in aprile quelli arrivati in Grecia. È una triste competizione, chiaramente, però 8.370 in Italia contro i 2.700 in Grecia, il 90% rispetto al mese precedente in Grecia. E poi c'è la Fondazione Leone Moressa, che segnala come il dato è un po' vecchio, del 2014, la ricchezza prodotta dall'immigrazione, e i 2.300.000 occupati stranieri in Italia, ha raggiunto mai 125 miliardi di euro, cioè rappresentano l'8,6% del PIL nazionale. La cosa, stiamo parlando di ovviamente immigrati regolarmente presenti sul territorio italiano. La cosa importante da notare, al di là di ogni retorica, è che i migranti versano contributi previdenziali per 10 miliardi e 300 milioni di euro, e quindi si può dire che, senza che qualcuno si abbia male, vengono pagati in questo modo le pensioni di 620 mila italiani, per due motivi: uno, perché i migranti spesso sono giovani; due, perché noi figli ne facciamo pochi, anzi tre motivi, tre, perché spesso quelli che possono tornano nel loro paese, però intanto versano i contributi, poi più avanti gli vengono dati, quindi c'è una dilazione intanto pagano e gestiscono 620.000 pensioni degli italiani. Dà fastidio questa cosa? Boh. Il fuoco e l'acqua. Però è la realtà dei fatti. O fate più figli, o facciamo più figli, al di là degli immigrati irregolari, o questa è la tendenza, con buona pace, diciamo, della difesa della razza. Professore Ernesto Savona, che dirige il Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Criminalità Transnazionale alla Cattolica di Milano e all'Università di Trento. Buonasera. Buonasera. Lei si ritrova nei dati diffusi oggi da Europol, Interpol, o sono ancora prudenti i 6 miliardi e il 90% gestito dalle mafie? Delle stime abbastanza intelligenti, se lei vede nell'appendice metodologica, per la prima volta in un rapporto del genere vengono riprodotti i criteri. Sicuramente sono un po' laschi, però almeno i numeri che vengono riportati, tra i 3 e i 6 milioni di dollari di business delle criminalità di diverso tipo, sono dimostrati abbastanza attendibili. Loro moltiplicano una stima sui numeri dei trafficati e delle vittime per il prezzo medio che è stato rilevato da indagini di polizia e altro, e diciamo che ci sta tutto abbastanza. Quindi lei non ritiene, cioè, ritiene che il calcolo possa essere abbastanza realistico, se ho capito bene? Direi di sì, visto l'alto numero di persone impegnate e il prezzo medio che è abbastanza attendibile. Veda, poi ci sono da quello che sono alcune fonti di informazione alternative all'ufficialità dell'Europol e Interpol, si parla anche di persone che pagano 300-400 dollari per un passaggio, quindi questa media da 3.200 a 5.000 è una media, veramente una media. C'è chi paga molto meno e chi paga molto di più, però il vantaggio di questo rapporto è che è il primo finalmente rapporto dove i dati vengono messi uno dietro l'altro e vengono documentati anche le fonti con le quali sono rilevati, e già questo è un progresso notevole. Sì, poi arrivo, visto che qualcuno mi sta parlando anche, vabbè, ve lo dico subito perché adesso vorrei parlare della criminalità invece, non solo di quella che aiuta insomma, che ci guadagna, specula sul trasbordo, sul passaggio dei migranti nelle coste europee, ma anche di quella che gestisce, perché poi sappiamo che a casa nostra abbiamo anche un problemino che si chiama l'infiltrazione delle mafie nella gestione dei centri d'accoglienza, per non girarci troppo attorno. Però il metodo e la pubblicità prima, e volevo solo dire una cosa che mi dice: ma guardi che abbiamo parlato del contributo dei migranti regolarmente presenti nel nostro paese, aggiungo che il saldo tra IRPEF pagata, hanno dichiarato redditi per 45,6 miliardi, versato 7 miliardi di IRPEF, il saldo tra entrate e uscite mostra un segno positivo per le casse dello Stato di quasi 4 miliardi di euro, ma aggiungo che la previsione è fatta non da qualche onlus o dalla Croce Rossa, ma dalla Bloomberg, quindi l'agenzia finanziaria per eccellenza che rappresenta il mondo, diciamo, del turbocapitalismo, della City e di Wall Street. Stima che entro il 2020, entro il 2060, l'Europa nel complesso avrà bisogno di oltre 250, con questi tassi demografici, 250 milioni di persone. Parliamo da qua al 2060. Il paese messo peggio è la Germania, dove ci sono 24 milioni, ci saranno 24 milioni nel 2050 di pensionati contro poco più di 41 milioni di adulti, vuol dire che neanche uno a due. Il rapporto, poi la Spagna, vi saranno 15 milioni di pensionati nel 2050 contro 24 milioni di lavoratori. In Italia il rapporto sarà di 20 milioni di pensionati e 38 milioni di lavoratori. Quindi, ripeto, o aumenta il tasso demografico con politiche per la famiglia anche di carattere fiscale, o accettiamo il fatto che questa mancanza di tasso demografico verrà rimpiazzata con forza lavoro regolare che arriverà dall'estero. Meteo. State ascoltando un programma offerto da... Perché porti dei limiti? Saxo Bank. Fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. Focus Economia. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Dedicato a tutti quelli che stanno scrivendo e insultando e confondendo gli sbarchi illegali di clandestini e di flussi migratori con i bisogni demografici censiti da tutti, Chris Stoforo, Colombo, andate a leggere ogni tanto, lo dico a questi ascoltatori, qualcosa che non sia solo la Padania. Allora, voglio dire, certificati da tutti gli istituti internazionali da qua al 2060 con questi tassi demografici, poi se i tedeschi si metteranno a fare figli, non arriveranno a una condizione di 24 milioni di pensionati con 41 milioni di adulti che lavorano. Uno. Due, Ecco perché molti dicono: guardi che non versano i contributi, siamo noi a pagargli l'albergo. Sta confondendo l'immigrato regolarmente attivo che versa contributi assunto con permesso di soggiorno con quello che sbarca e mettiamo nell'albergo. Ma è dura, giustamente uno mi dice: ma qual è il problema? L'alternativa è che lavoriamo noi fino a 75 anni, poi la pensione non la pigliamo perché crepiamo subito dopo. Certo che l'alternativa non è altro se non facciamo più figli o non abbiamo più forza lavoro fresca. Però una la critica la può fare sul fatto che non vi siano politiche fiscali per la famiglia. L'abbiamo detto molte volte, la famiglia in Italia esiste solo quando c'è da parlare di unioni civili e di diritti delle adozioni, quando c'è da levare, da creare il quoziente familiare per la defiscalizzazione, avvantaggiare chi ha figli rispetto a chi è single e creare anche una detrazione come fanno in Francia sulle tate, sulle badanti, no? Per i primi anni di vita lì tacciono tutti, compreso il mondo cattolico che è sempre molto attento invece quando si parla di etica della famiglia. Ma la famiglia vive di etica, ma vive anche di soldi, abbiate pazienza. Allora, tornando invece a lei che studia proprio il traffico dei mondi criminali sui flussi migratori, professor Savona, 6 miliardi sono tanti o sono pochi? Ma guardi, la stima che abbiamo fatto del traffico di cocaina in Europa è 11 miliardi, quindi se facciamo un rapporto tra quelli che sono coinvolti, secondo il rapporto Europol-Interpol, 40.000 sospetti, e le vittime, non è poi un gran business in un certo senso, rispetto a sicuramente le droghe. E forse una cosa bisognerebbe farlo, e lo dice anche il rapporto: se noi riducessimo il tasso di criminalità di queste persone, gli trovassimo un modo legale di atterrare in Europa, risparmieremo un sacco di soldi che vanno nelle tasche della criminalità e faremo quello che lei diceva prima, alimenteremo forse la crescita demografica dell'Europa stessa. Sì, e avremo anche una selezione fatta in maniera un po' diversa, perché poi chi arriva illegale ha alti rischi di restare illegale, non è un automatismo, per carità. Ma una cosa ve lo fanno notare, però questo conto dei 6 miliardi a mio avviso non integra anche invece i soldi che stanno guadagnando la camorra, la Sacra Corona Unita, la mafia e l'andrangheta nella gestione di alcuni centri di accoglienza. No, ecco, in questi 6 miliardi conto fatto da Europol c'è soltanto... No, perché lì c'è un meccanismo, mi dica però se mi sbaglio, il sospetto è questo, che noi li teniamo tanto in questi, perché chiaramente i centri d'accoglienza gestiti a questo punto guadagnano con soldi dello Stato, e più uno sta lì dentro più questi guadagnano, e spesso sono in mano alle criminalità nel sud. Però non gli facciamo nessuna formazione. Poco tempo fa la comunità di recupero Saman si è messa a prendere alcuni di questi immigrati e si è messa a dargli un po' di istruzione, un po' di italiano e dei lavori da fare. Mentre la cosa perversa delle mafie è che non solo li tengono lì volutamente, hanno un vantaggio nel tenerli nei centri d'accoglienza, ma nemmeno spendono soldi, perché sono mafie e sono mafiosi, per fare formazione. Sì, questo è un indotto sicuramente rilevante, ma non entra in questa contabilità. In questa contabilità invece c'entra la contraffazione, la corruzione che produce un traffico di questo tipo. Veda, la Merkel ha stanziato 7 miliardi per la formazione dei siriani, e 7 miliardi di euro non sono pochi, da quello che è il dato che almeno è arrivato, e quindi vuol dire che l'investimento in formazione e in integrazione può anche rendere se non li scegliamo bene. Il problema è che dobbiamo diminuire completamente la componente criminale. Questi soldi sono persi, questi arrivano lo stesso. Scusi, ma la proposta che alcuni avanzano di dire: beh, a questo punto, siccome se noi li appaltiamo a società private, poi non c'è mica solo la Sicilia, guardate lo scandalo Roma Capitale, certo, diciamo uno degli epicentri era proprio nella gestione, nel centro di gestione degli immigrati, però se a darli in appalto a società esterne ci espone al rischio altissimo della penetrazione e infiltrazione delle mafie, non sarebbe meglio che si rigestisse direttamente lo Stato? Così non regaliamo i soldi alla camorra, all'andrangheta, alla mafia, alla banda, agli ex della banda della Magliana, alla cupola. Non è detto che se lo gestisce lo Stato non ci sia lo stesso livello di inquinamento. Lo Stato non è efficiente per sua natura e quindi alla fine si creano da capo situazioni di rischiosità. Il problema è che noi non li inseriamo, non li integriamo sulla base di progetti condivisi, facciamo delle cose a spot, non facciamo una grande campagna per l'integrazione di queste persone con una visione su quello che dovranno essere il loro contributo alla realtà italiana. Poi questi non stanno in Italia, vanno via, tra l'altro vanno in Svezia o nei paesi scandinavi. Quindi per noi sono anche uno spreco di risorse, perché loro vengono da noi li paghiamo per stare e poi se ne vanno anche via, perché l'Italia purtroppo non è un paese attraente per questi migranti. Quindi lei non ritiene che lo Stato, come gestione diretta, non come finanziamento di società straniere, potrebbe tagliare, diciamo, o ridurre il rischio di gestione criminale? No, non credo che sia questo, perché purtroppo la gestione da parte dello Stato o pubblica di queste cose si equivale a quella privata. Ci sono meccanismi. E allora come facciamo, mi scusi per concludere, Savona, a controllare che, insomma, uno non resti in un centro di accoglienza per un anno, non perché veramente c'è un problema, ma perché in questo modo guadagna di più la società che gestisce il centro? Dobbiamo trovare un sistema di incentivi e di disincentivi per poter far sì che questi vadano velocemente dove vogliono andare, quindi l'ospitalità è un accordo tra paesi europei, da quando i paesi si muovono ognuno per i fatti loro non riusciamo a trovare assolutamente la soluzione. Ma questo vale per quelli a cui noi riconosciamo il diritto d'asilo? Certo, vale anche per quelli migranti economici, però, perché noi i migranti economici li mettiamo dentro, li chiudiamo in queste semiprigioni e poi alla fine non risolviamo il problema, loro stanno lì anche addirittura per mesi, per anni. A costo dello Stato, questo sì, a costo dello Stato. A costo dello Stato, ed è uno spreco di risorse. Non facciamo del bene a loro perché non li integriamo, sono una specie di semi-libertà. Sì, però mi scusi, l'obiezione potrebbe essere che se noi integriamo e facciamo i corsi di formazione anche l'emigrante economico, non distinguiamo più tra emigrante politico, cioè chi scappa da guerre, da persecuzioni, e emigrante economico. Questa è una distinzione molto importante, ma oggi poco praticata. Infatti c'è una grande confusione tra le due cose. Però lei sarebbe per fare i corsi anche all'emigrante che dovrebbe essere espulso, perché l'emigrante economico teoricamente dovrebbe essere espulso, abbi pazienza. Guardi, quello che diceva prima lei è veramente è vero, nel senso, noi abbiamo bisogno di questa gente. Proviamo a capire che dobbiamo fare un investimento su di loro. Loro arrivano, c'è una domanda di immigrazione, noi abbiamo bisogno di loro. Mettiamoli dentro in un modo intelligente, razionalizziamolo, evitiamo di dare soldi alla criminalità organizzata e di riempire le tasche dei criminali, 5 miliardi di dollari non sono pochi. E a questo punto, poco a poco, con un accordo tra i vari paesi europei, alimenteranno questo vuoto demografico che comunque sembra esserci. Non è con un bonus asilo, nido o qualche cosa che si risolve il problema. In Italia la stima recentissima è quella che abbiamo 50.000 persone meno di nascite nel prossimo anno. In Germania lei lo diceva. Allora, io sono dell'idea che invece i bonus, ma non i bonus, la defiscalizzazione, che il bonus non sai quanto dura, è una tantum. Invece fare come, ripeto, la Francia è l'unico paese europeo in cui il tasso demografico è diverso dal resto d'Europa, ha delle politiche per la famiglia pazzesche, scarichi la tata, la babysitter per i primi 3 anni, hai l'asilo, le convenzioni sugli asili, cioè ha un insieme di vantaggi. Detto questo, ho capito cosa dice lei, e mi dà solo una risposta flash perché sono fuori ogni tempo massimo. Molti mi stanno scrivendo: ma come facciamo a coniugare l'esigenza di flussi migratori, perché nascono pochi bambini in Italia e bisogna pagare le pensioni a persone che diventano sempre più vecchie, per fortuna, cioè aumenta l'età di vita attesa, con la disoccupazione che abbiamo giovanile sopra il 20%. Mi dispiace doverlo dire, importiamo immigrati in questo momento. No, ma dico, per i posti potrebbero andare gli italiani, cioè come si fa a dire che abbiamo bisogno di immigrati? Di immigrati se abbiamo una disoccupazione al 20%. Ma qui c'è uno squilibrio notevole sotto tutti i punti di vista. Lei queste cose le conosce molto meglio. Ma la domanda l'ha fatta lei, però. Le conosce molto meglio di me, perché alla fine abbiamo bisogno di queste persone, ma non sappiamo collocarle bene, perché le attività produttive si possono razionalizzare un pochino e ridurre anche gli sprechi. Io credo che si possano trovare delle compatibilità su questo. Decisamente sì. Il problema è che molto spesso i lavori che fanno i migranti, lo sappiamo tutti, non sono i lavori che chiedono gli italiani, ma anche giustamente, anche legittimamente. Per cui uno preferisce aspettare per ritrovare un lavoro più consono alla sua formazione e preparazione, e altri lavori che mantengono una certa pressione sui prezzi. Va detto tutti, perché poi uno potrà incavolarsi perché il lavapiatti è singalese, lo dico con massimo rispetto per la comunità cingalese, però poi quella via piatti regolarizzato e con i contributi, non certo. Stiamo parlando di lavoro in nero, mantiene anche più basso il prezzo del tuo ristorante, l'italiano non vuole venire a farlo, e questo è il dato di fatto. Io non so come girarla, ma non è che posso inventarmi un mondo che non c'è. Pensi tutta l'assistenza agli anziani di cui avremo sempre le più badanti bisogno. Allora, dove sono tutte queste donne che vogliono fare le badanti? Giustamente una donna mi dice: ma io mi sono diplomato, ho fatto un corso di studi, non voglio fare la badante. Perfetto, però mia nonna chi la tiene? E la tiene l'Ucraina, la Moldava e quant'altro. Esattamente. Ma va non bene, è, grazie. Non è facile come soluzione. Grazie, professor Savona. Arrivederci. Traffico con un leggerissimo ritardo. Focus Economia. Allora, adesso faccio solo tempo a darvi l'andamento di borsa, come ha chiuso, e poi il commento dopo, così come commentiamo i dati sul PIL, -1,34%, con cali pesanti per Fiat Chrysler, dopo il report di BNP Paribas, -6,70%, Banco Popolare, -6,5%, Pop Milano, -5,5%, bene invece Media 7,3%, Tenaris +2,20%. Meglio hanno fatto di un punto percentuale le altre borse, perché hanno perso Parigi lo 0,30%, Francoforte lo 0,60%, Londra +0,30%, il Dow Jones -0,22%. 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. Ci sentiamo dopo il GR24. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. State ascoltando un programma offerto da... Perché porti dei limiti? Saxo Bank, fai trading ovunque, da qualsiasi dispositivo. Focus Economia. -18:08, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, abbiamo dato la chiusura di borsa e la commentiamo come sempre con Radio Color, il Sole 24 Ore. Eleonora Micheli, buonasera. Buonasera. BPM e Banco Popolare. Il piano è piaciuto, ma meno male che è piaciuto, nel senso che i due titoli hanno perso, il Banco Popolare il 6,5% e la Pop Milano il 5,5%. Eh sì, in effetti, come hai detto tu, oggi hanno registrato la performance senza dubbio peggiore. D'altra parte ieri erano i titoli che erano andati meglio e infatti, guardando bene il listino, sono andati particolarmente male i titoli che proprio nelle ultime sedute si erano distinti al rialzo. Comunque oggi è stato debole tutto il comparto bancario, anche altri istituti sono andati giù, in primis anche Unicredit che ha perso quasi il 2%, mentre il mercato continua a interrogarsi se ci sarà un rimpasto ai vertici. Sì, molti lo danno per certo, altri invece dicono che non succederà nulla. Staremo a vedere. Mediaset +3%, Tenaris +2,20%. Allora, vorrei commentare Mediaset da un lato, ma dall'altro Fiat Chrysler, che è il peggiore perché perde il 6,70% oggi. Esatto, per quanto riguarda Mediaset oggi ha spiccato +3%, mentre gli investitori si interrogano su quella che sarà la futura raccolta pubblicitaria, ma anche dalle indicazioni che ieri ha dato Nielsen ci potrebbero essere degli spiragli per un miglioramento, almeno questo è quello che scommette il mercato. Invece Fiat ha registrato la performance peggiore tra i titoli del FTSE MIB, -6,67%, a causa di un report negativo che ha puntato l'indice soprattutto su sull'eventualità che rallenti il mercato americano, e quindi questa sarebbe una prospettiva molto dannosa per Fiat Chrysler. Detto questo, comunque va segnalato che oggi è andato particolarmente male tutto il comparto auto europeo, che ha lasciato sul parterre il 2,66%, cioè FCA ha fatto peggio, però tutto sommato era in buona compagnia con altre, con altre case auto. Exola, controllante, perde il 2,80%, male anche il lusso con Yux Saint Apporter -3,80%, Ferragamo -3,90%, Telecom cede il 2,70%, Anima Holding pure, Poste Italiane -2,5%. Migliori e peggiori in assoluto, Isagro +15%, Bioera +11%, Meteoros Capital +9,80%, e poi sul fronte opposto invece Novatec -11%, Esprinet -8%. Rizzoli, Corriere della Sera, sempre sopra livello anche dell'offerta di ieri di Bonomi? Assolutamente sì, i titoli quest'oggi sono arrivati a segnare 0,72 euro, invece la cordata ha offerto, ricordiamo, 0,70 euro, hanno chiuso poi a 0,71 euro. Evidentemente il mercato scommette che sarà rivista al rialzo la proposta della cordata, e forse chissà anche quella di Cairo, che invece ricordiamo ha offerto meno, ma soprattutto ha offerto delle azioni di Cairo Communication, gli altri invece pagheranno in contante. Staremo a vedere, appunto, il mercato scommette che l'operazione sia tutt'altro che finita e le offerte tutt'altro che concluse. Grazie, onorevole Micheli, adesso iniziamo una lunga pagina con le due notizie che ci riguardano. La prima, così la risolviamo subito, sono i dati dell'Istat su come andrà il 2016, fronte consumi, fronte occupazione, PIL e export. E poi invece la flessibilità che a questo punto è ufficiale, anche se domani vi sarà l'atto istituzionale, l'Europa avrebbe concesso all'Italia, pari a 14 miliardi, lo 0,85% del PIL. Allora, l'Istat ci dice che quest'anno il nostro PIL crescerà dell'1,1 in termini reali, che è un dato sostanzialmente su cui tutti si sono allineati, è un po' più basso rispetto alle attese dell'anno scorso, più 1,3%. La cosa positiva è che questo PIL crescerà per la domanda interna, dico perché è positiva, perché per anni sono mancati i consumi dal 2008 in poi, soprattutto poi nel 2013-2014. La cosa meno bella invece è che l'apporto dell'export sarà pari a zero, cioè meno 0,1 è previsto l'andamento complessivo per il rallentamento dell'economia, soprattutto dei paesi emergenti. La disoccupazione scenderà ulteriormente dall'11,9 del 2015, quando era già scesa sotto la soglia del 12%, all'11,3%. L'occupazione crescerà dello 0,8, i consumi appunto più 1,4%. Bene anche il dato sugli investimenti. Mancavano all'appello sia i consumi che gli investimenti, più 2,7%. E come dicevamo in apertura, che le esportazioni, nonostante la bravura delle nostre imprese, non vadano benissimo, lo capiamo anche dal dato di marzo, meno 1,5% rispetto all'anno prima, con un calo pesante nei paesi OPEC, meno 21%, Turchia meno 11%, anche verso la Germania meno 3% rispetto a un anno prima. Gli Stati Uniti continuano ad andare bene, più 11%. Allora, professor Fabio Sdogati, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti. Lei che insegna economia internazionale al MIP Politecnico di Milano. La battuta viene facile: non si riesce a avere mai due cose assieme. Cioè, siamo andati avanti per 2-3 anni con l'export che compensava in parte il calo della domanda interna, dei consumi e degli investimenti. Adesso che sono ripartiti, anche se non in maniera soddisfacente, ma sono ripartiti consumi e investimenti, rallenta l'export. Ma c'è un ciclo mondiale in fortissimo rallentamento, questo va detto, non è soltanto l'Italia che rallenta, sono un sacco di paesi che rallentano, e rallentano perché si è rotto il meccanismo che ha tenuto in piedi tutto il gioco, grosso modo dalla prima metà degli anni 90 fino al 2014, cioè, tanto per semplificare al massimo, la coppia Cina-Brasile. Quella coppia aveva garantito che tutte le economie emergenti che funzionavano da subfornitori crescessero anche loro, e quindi le imprese italiane, che sicuramente, come lei ha detto, fanno bene sul mercato internazionale, hanno saputo approfittare di quella situazione. Adesso quel meccanismo si è rotto e lo vediamo, no? Lei ha citato alcuni numeri spaventosi, meno 21% nei paesi OPEC, meno 28% in Brasile. Bisognerebbe poter contare sulla domanda interna. Domanda interna che, per carità, lei ha ragione, anche se poco riprende, però sta arrivati alla mia età, uno è stanco di sentir parlare sempre di zero virgola. Vabbè, anche la mia. Anche la mia, Sdogati. No, qui è più 1,4%, però visto che lei fa spesso il punto importante è questo: l'importante è non raccontarsi storie nella vita. Allora, vabbè, se io guardo la crescita del prodotto interno lordo pro capite dal 2011, noi siamo il solo paese insieme alla Grecia che perde il 6% cumulativo. Voglio dire, la Spagna prende più 1%, il Portogallo perde solo l'1%, gli altri vanno avanti. Cioè, c'è qualcosa che non funziona, ma non in Renzi, voglio dire. No? A me francamente non interessa niente delle differenze fra Renzi e qualcun altro. Però da Monti in avanti, perché i miei dati sono al 2011, c'è qualcosa. Sì, devo dire che il dato male sul PIL pro capite, ahimè, e sulla produttività è in calo anche da prima della crisi, cioè nel senso che questo è un dato in cui l'Italia continua a crescere meno quando gli altri crescono, e invece cala come gli altri, se siamo a essere buoni, quando gli altri calano. E questo si vede poi in quello che è successo anche dal 2011 sul PIL pro capite tedesco, per esempio, che da 100 va a 104, il nostro scende da 90 a 98, da 100 a 98. Per cui, quando diciamo ripresa fragile, ripresa debole, è perché comunque è una ripartenza sempre più lenta degli altri. E questo è quello che, diciamo, non piace di questi dati, fermo restando che è sempre meglio segno più. Ma Sdogati, visto che lei spesso dà consigli alle imprese di diversi settori industriali sulle strategie da adottare per le esportazioni, adesso è difficile fare un discorso in 2 minuti per i vari settori, ma a fronte di questo rallentamento Cina, Brasile, ormai conclamato, Russia pure già in atto. Lei avrebbe qualche consiglio per chi si era rivolto, si stava spostando verso questi mercati, oppure l'indicazione è sempre continuare a lavorare sulle reti di distribuzione, reti di vendita, commercializzazione, catena del valore e via così? Ma le parole chiave sono essenzialmente quelle che lei ha pronunciato, cioè noi dobbiamo prendere questo nostro imprenditore italiano che ha tantissimi meriti, che nessuno capisca male, però ha un grande difetto. Cioè, non ha la capacità di mettere insieme una strategia. Voglio dire, adesso questo è il momento di comprare, per esempio, attività produttiva nei paesi emergenti. L'euro è relativamente forte, sicuramente rispetto alle valute di quei paesi, anche se si dovesse pagare in dollari andiamo relativamente bene. Noi abbiamo bisogno di internazionalizzarci al di là delle esportazioni. Non possiamo continuare a sognare di esportare se non stabiliamo attività di non so come dirlo, chiamiamolo di joint venture, mm-hmm. che è un'espressione che tutti usano. Di alleanze, di aggregazioni. No? Dobbiamo superare questa fase delle esportazioni. Io credo che possiamo farlo. Io lo vedo nelle aziende, lo vedo nei corsi di formazione che facciamo al Politecnico. Noi possiamo fare bene. Adesso il problema vero, secondo me, però, non è la presenza sull'estero, perché di fronte a un massacro come quello che stanno vivendo i mercati internazionali, tutto sommato, no? Ballare attorno allo 0,1% di aumento va benino. Il problema mio vero è l'innovazione. Cioè, noi non siamo un paese che innova. O meglio, noi abbiamo tanta innovazione, poi abbiamo difficoltà a trasferirla sui processi produttivi, cioè sviluppiamo questo, brevetti, certo. Ricerca, poi però che questo venga trasmesso a tutto un settore è un altro paio di maniche. E questo è il problema vero, no? Il problema vero è che noi abbiamo avuto una generazione di imprenditori che io chiamo quella degli anni dell'orgoglio, diciamo 50, 60, 70, che hanno fatto l'ira di Dio, hanno portato un paese di pezzenti, analfabeti, malnutriti nel mondo e ci hanno portato con grande competenza e con grande dignità. Poi da lì noi abbiamo cominciato a rallentare e oggi vedo tante imprese che annaspano perché non hanno capito che il gioco è cambiato e alcuni imprenditori pensano di poter giocare ancora le carte che hanno ereditato dal nonno. Non è più così. E quindi questo sforzo di portare dentro l'azienda, lo sforzo che si fa nelle università, nei centri di ricerca, eccetera, va veramente compiuto, perché ogni mattina qui ci svegliamo e io dico il miracolo l'abbiamo fatto anche ieri, no? Sì, però è un giorno per giorno che insomma ha il respiro corto. Ho capito il suo ragionamento, Sdogati. Mi dica solo una battuta, perché poi il prossimo tema: è contento che l'Europa nel frattempo ci abbia dato questi 14 miliardi di maggiore flessibilità? Non me ne frega niente. Bravo. Grazie, buon lavoro, traffico. Focus Economia. Allora, al di là della battuta di Sdogati, perché la spiego, perché lui ragiona sui meccanismi appunto non di giorno per giorno ma di scelte strategiche delle imprese, chiedo alla mitica Adriana Cerretelli, editorialista sulle 24 ore in collegamento da Bruxelles. Buonasera Adriana. Buonasera. E grazie anche all'editorialista sulle 24 ore Guido Gentili in collegamento con noi da Roma. Buonasera Guido. Buonasera. Così mi sa che facciamo la prima del giornale adesso, in anteprima, dai, non scherzo, non so come... Domani sarà la prima pagina del giornale, però Adriana Cerretelli, possiamo dire che questo 0,85% che valgono 14 miliardi in più di flessibilità sul deficit è una parziale, quantomeno parziale, ma vittoria italiana, nel senso che c'è un'Europa che capisce di più, le hanno giustificati tra l'altro spacchettando questo 0,85%, perché sostanzialmente nello spacchettamento scopriamo che 8 miliardi valgono per una maggiore flessibilità concessa per le riforme strutturali fatte dall'Italia e considerate convincenti, che è la cosa grossa. 4 miliardi ce li danno per gli investimenti produttivi, poi la crisi migratoria vale 700 milioni e la sicurezza contro il terrorismo vale 950 milioni. Renzi dice una vittoria grande, Padoan, non è la flessibilità che volevo, ma comunque l'abbiamo ottenuta. Ha ragione, nel senso, è comunque dal punto di vista della politica e della trattativa con Bruxelles una vittoria? Beh, è certamente una, come dire, un riconoscimento indiscutibile, quindi non è insomma 14 miliardi di questi tempi di rigore non sono certamente pochi. Quindi soprattutto nel clima che c'è, nel quale insomma si tende sempre a mantenere un po' la barra della disciplina ferma, ma al tempo stesso si cerca di renderla un pochino più lasca, perché ci si rende conto che realisticamente questa politica economica che è stata, diciamo, applicata finora non è riuscita a ridare slancio all'economia europea. Abbiamo l'inflazione che rasenta sempre la deflazione, e quindi l'occupazione che certamente non brilla, gli investimenti che fanno paura proprio perché mancano, e abbiamo un eccesso di risparmio in Europa. Quindi sono tutte e in più le incertezze globali che ci circondano, dagli stessi Stati Uniti, dove non si sa che esito porterà la campagna delle presidenziali, alla Cina, no, che rallenta nonostante i suoi ritmi siano sempre invidiabili. Insomma, ci sono 3.000 cose, cioè, il petrolio che risale, che per certi versi però, bene, scusami, per altri invece no. In una battuta volevo capire, ma è tra virgolette un merito della trattativa condotta dall'Italia, o è un'Europa che è cambiata come atteggiamento nei confronti di tutti i paesi dell'area euro, secondo te? No, è certamente un merito della trattativa dell'Italia, nel senso che l'Italia si è assolutamente impegnata per avere al massimo i margini di flessibilità, ma quello che non va dimenticato però è che le condizioni sono molto chiare, nel senso che non è un regalo, no, che l'Europa fa, perché nel 2017 dobbiamo correggere di 3 miliardi. Secondo me l'anno prossimo sarà un anno durissimo per i conti pubblici italiani, sia perché si parla di questa manovra aggiuntiva da 2,5-3,5 miliardi, sia perché c'è la questione del debito, perché la questione del debito è sempre un po' sottesa, ma non ci dimentichiamo che c'è il Fiscal Compact che in teoria dal 2015 che Renzi oggi ha definito ridurre, cioè il debito, che Renzi oggi ha definito tra l'altro un errore poco fa in un'agenzia. Guido Gentili, però, se come Adriana Cerretelli ha detto in maniera molto chiara, è un'Europa che cambia atteggiamento, ma grazie anche a una trattativa italiana, questo non c'è niente di male a dirlo, il Premier se lo può mettere come medaglia, oggi ha detto grandissimo il lavoro fatto da Padoan. Domanda, a questo punto bisogna capire come questa flessibilità la utilizzi, perché a noi è sembrato chiaro fin dall'inizio che fosse sbagliato levare l'IMU, può aver avuto un motivo elettorale, ma secondo me se lo sono già dimenticati gli italiani. Cioè, secondo te, siccome il tema che poneva Adriana, occhio però all'anno prossimo, deficit e debito, tu lo puoi risolvere se cresce il PIL più del previsto. Secondo te il governo ha capito che è ora di mettere mano anche a una riduzione fiscale su chi lavora o il lavoro lo dà o lo fa, cioè IRPEF e IRAP? Il problema è proprio questo. Il governo ha messo da parte, se vogliamo chiamarlo con un termine che conosciamo da tempo, no, porta sfiga, tesoretto? Un tesoretto di credibilità, okay. Nel senso che è riuscito in una trattativa complicata, quindi bisogna dare atto al ministro dell'economia che è stato molto bravo e paziente nel tessere questa intesa, è riuscito a farsi dare qualcosa che nessuno ha avuto prima d'ora, diciamo, in Europa. Quindi parte da questo jolly che gli è stato concesso. Ora si tratta di vedere come viene utilizzato. Perché se purtroppo, diciamo, non aiuta la contingenza politica, perché noi andiamo verso le elezioni amministrative, passiamo poi per Brexit, che è un altro appuntamento importante che ci può vedere il nostro malgrado protagonisti se dovesse andare male, dovessero, diciamo, i mercati innervosirsi, e noi abbiamo un debito molto alto e quindi è un terreno molto sensibile, e finiamo con il referendum pro contro Renzi a metà ottobre, cioè nel momento in cui andiamo a mettere mano e a presentare all'Europa la prossima legge di stabilità per il 2017. Quindi è evidente che, diciamo, si creano le condizioni per una lunghissima campagna elettorale interna. E in questo caso noi sappiamo che sia la maggioranza che l'opposizione possono dare le prove peggiori, diciamo, in termini di ricerca dei consensi, e quindi se diciamo Renzi dovesse cadere tra virgolette in questa trappola e quindi insistere per esempio su una politica caso per caso, bonus per bonus, per intendere, sì, che non se serve non mettere male davvero alle riforme, davvero a una manovra, ad esempio sul piano fiscale, come ricordavi tu, davvero incisiva, allora rischiamo molto, perché noi siamo a ottobre, saremo davanti a un bivio vero con la prossima crisi. No, ma rischiamo anche per quello che diceva prima Adriana Ceretelli, perché poi l'Europa ci dà questo margine, ma ci chiede di correggere i conti rispetto alle attese di 3 miliardi nel 2017. Quindi o metti a frutto questo margine quest'anno e speri che magari questo faccia ripartire ancora di più l'economia, o se no ti trovi con un doppio problema nel 2017. Per cui, e tra l'altro, come tu ricordavi, ognuno può pensare come vuole, ma da un punto di vista quantomeno economico è stato un errore legare un referendum su una riforma costituzionale alla esistenza stessa del governo, cioè un referendum pro o contro Renzi. Questo, insomma, mi sembra che sia chiaro anche a chi dice che stiamo leccando qualcosa al Presidente del Consiglio. Invece su questo non siamo d'accordo. Grazie anche per la sintesi, ma volevo un'opinione flash. Adriana Ceretelli in collegamento da Bruxelles, a Guido Gentili da Roma. Noi ci risentiamo domani con un'altra puntata di Focus Economia dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.